fare tutta la... Resto Radio Convento, per raccontarsi, per raccontare. E ci siamo in diretta radio sabato sera, Ristorante Convento, sono le 2.44 e abbiamo due ragazze biondissime che vengono da... Bologna, sulle mani! San Giorgio di Piano, ragazzi! Ma dalle vostre parti sono tutte così cariche, eh? Certo! Yes! Cos'hanno le bolognesi che hanno... Cos'è che hanno in più? Le bolognesi hanno l'adrenalina del sangue! Sanno vivere! Fantastico, fantastico. Allora ci trasferiamo tutti a Bologna, quasi quasi. Eh? Certo, sì. Tutti invitati. Siamo invitati? Certo. Veniamo con la 50 special, con la Vespa? Esatto, 50 special. Ovvio, ovvio. Allora, ricordiamo chi siete, esatto. Io sono Sara da Bologna. Io sono Giulia da Bologna. Lei è mia cugina, figlia di... Le nostre mamme sono gemelle. Ah, ecco, ok. Sara è la sposa. Sulle mani. Che si vede in radio, tra l'altro. Ecco, tra l'altro, anche quelli che stanno guidando la macchina in questo momento, diciamo questa cosa? Sì. Certo, no, aspetta, chi guida la macchina deve tenere le mani sul volante. Però brava. Sul momento può anche un po' alzarle. Se sono fermi al semaforo, esatto, senza bere, esatto. Brava, brava, ecco, cosa che voi perché non avete fatto stasera, esatto, immagino. No, okay. No, sì. Noi siamo con la nostra la mia testimone incinta. E quindi guiderò la macchina sobria. La testimone incinta. Esatto. Beh, ecco, esatto. Comunque voi siete cariche così di natura, giusto? No, certo, sì, certo. Perché Bologna è una città che va avanti sempre. Alla grande, alla grande. Quindi se qualcuno però è fermo al semaforo adesso in questo momento deve tirare sulle mani, giusto? Ditelo voi. Sì, sulle mani! Bologna! Per Sara e Giulia, giusto? Grande! Grandissime, grandissime. In questo momento io ho un pollo davanti, dove è andato? Hai visto un pollo? Sì, c'era un pollo davanti, un futuro sposo vestito da pollo, io dico. Quindi un futuro sposo pollo. Un futuro sposo pollo. E pensa, il tuo futuro sposo invece da cosa si è vestito? Il mio futuro sposo farà l'addio al celibato fra 2 settimane. Non verrà vestito da pollo, immagino. Spero di no. Ecco, non si sa. Ma dove lo fa? Dove lo fa? A Valencia. A Valencia. Quella Valencia, trasfertona. E come si chiama il futuro sposo? Matteo. Matteo. Tu lo conosci, Matteo? Certo che lo conosco. Ti piace Matteo? Sì, sì. È un bravo ragazzo? Un bravo ragazzo. Sì? Lo sapremo dopo l'addio al celibato. Ah, sei ancora bravo ragazzo? Sì, anche perché in 3 secondi, ragazze, se non va bene, che si fai? Molla, Oh, no, questo amore puro, io lo vedo nei tuoi occhi che... Matteo è carico come la sposa, esatto, come la sposa Sara. Lo sta minacciando, Sulle mani per Matteo, se mi ascolti. Ecco, attenzione alla video intervista minaccia. Matteo, se mi ascolti. Fai il bravo, fra 2 settimane divertiti. Sì. Non devi avere limiti. Ah, perfetto. Però nello stesso tempo ricordati che ci dobbiamo sposare. Ecco. Io non ho bisogno di annullare in 3 secondi il matrimonio. Perfetto. No, vai avanti che a questo punto così si prepara. È interessante, ti puoi divertire, devi fare quello che ti senti, però sappi che io non ho paura. Ecco, anche invece Giulia ha molta paura. Anche io mi sto un po' terrorizzando. Cioè, ci stiamo allontanando. No, mi sto un attimo impaurosendo. Impaurosendo. No. Ci fai la faccia impaurita? Perfetto, la radio viene benissimo, tra l'altro. Ok, ma così tiriamo un po' su. Come si chiama il futuro marito? Matteo. Di Matteo. Come ha fatto a chiederti di sposarti, Matteo? Matteo mi ha chiesto di sposarmi con un cucchiaio nel minestrone di verdura. Della Findus? No, sì, va bene, sì, ok. Bravissimo. Di questo periodo. Assolutamente, dimmi. Io stavo mangiando questo minestrone, ho preso il cucchiaio, ho visto mi vuoi sposare. Ho iniziato a ridere. Ma nel cucchiaio? Inciso sul cucchiaio. Inciso sul cucchiaio. Questa è arte. Non ci credo, grandissimo. Ho iniziato a ridere, ho detto certo, amore mio. Grandissimo Matteo, grande. Dopodiché si è alzato, è andato a prendere l'anello e io ho iniziato a dire no, no, no, no, non farlo, non me la sento, non me la sento. Davvero? Sì. Nella tua testa però lo dicevi? No, lo dicevo ad alta voce. Ah, urlavi. Ok, quindi lui è andato molto tranquillamente a prendere questo anello. Sì, e mi ha chiesto di sposarlo, al che non si è inginocchiato. No. Lui ha la testa calda. Male. Lui ha la testa caldissima. E quindi ho detto, per una volta nella tua vita adesso ti inginocchi e me lo chiedi in ginocchio. In ginocchio. E quindi lui cosa fa? Lui me l'ha chiesto in ginocchio. Abbassato la cresta. Ha abbassato la cresta, Matteo. Per una volta. Per una volta solo, dai, ci sta. Per questa occasione ci sta. E io ho detto, va bene. Va bene. E ora ci troviamo qua a 2 mesi dal matrimonio. Matteo! Cos'è? Ciao! Attenzione, Matteo, anche lui secondo me ha un leggero terrore. Per me non va neanche a Valencia, Matteo. Per... anche secondo me. Così va. Vai, attenzione. Aspetta, è passata una collega, perché noi dobbiamo descrivere un po' la situazione. Siamo in una specie di acquario qua, giusto? Sì, siamo in un acquario. Abbiamo tutta la gente che balla, c'è un sacco di addio al celibato, al nubilato. C'è un strano soggetto con la camicia bianca che ci sembra... sono delle persone vestite strane, molto strane. Noi siamo le uniche che siamo vestite in una maniera normale, decorosa. Abbiamo un pollo, abbiamo un girasole, abbiamo un... abbiamo delle semplici coroncine in testa. Ci stanno indicando, come per dire, guarda quelle come sono vestite normali. Esatto, è vero. Questa è una cravatta con uno smile in fondo che ormai tutti è coperto. Tutti quanti hanno queste care cravatte con gli smile, che non si sa bene cosa vogliono strane. Dire. Infatti loro vi additano come delle persone strane, sì, a voi, sì, perché sì, qua... sì. Sì. Sono tutti vestiti strani, sì, tranne sì, che voi. Che storia, sì, sì, che roba, incredibile. Ma perché noi abbiamo regalato dei momenti di ginnastica. Ginnastica, cosa avete fatto? Sì. Abbiamo fatto la verticale. Lei ha fatto la verticale. In pista? Ha fatto un cicchetto in verticale. Un cicchetto in verticale, ce lo siamo persi. Avete fatto il video? Sì, no? Sì, sì. Ah, aspettate che c'è il Papa che sta ballando sul trespolo là. Bisogna guardare anche il Papa. C'è il nostro Papa. Che è in tema con il convento. Esatto, c'è da dire. Bravissimo. Ricordiamo che non è un miraggio quello che vedete. Non no, avete no, allucinazioni. È il Papa. È veramente uno sposo che si è vestito da Papa e che i suoi testimoni hanno permesso questo. Ma tra l'altro ci assomiglia parecchio, no? Non mi sembra da qua? Sì, è uguale al Papa. Sì, sì, sì, sì, sì. Balla uguale, tra anche l'altro. Anche l'età è abbastanza uguale al Papa. È vero, è un giovane vecchio il questo ragazzo. Si sta sposando questo ragazzo. Sì, anche, è un miracolo per lui. Meglio tardi che mai. È diciamo. Un miracolo anche per lui. Esatto. Perfetto, perfetto, bravissimo. Non c'è un'età per sposarsi, ragazzi. Si è appena schiantato, è volato giù dal tavolo? No, è lievitato. L'avete visto anche voi? Ah no, adesso è andato sul cubo, si è attaccato al palo, è attaccato, è lì, dove c'è il palo. Grande Papa. Sulle mani, Papa! Yesa! Ecco, ogni tanto c'è questo sulle mani che scatta come un jingle nel... A Bologna... Sì. A Bologna che fai? Non si può dire. A Bologna? No, che succede? Che fa? Sta scrivendo? C'è Moscerino o vuoi prendere a testata il microfono? Allora Irene sta ballando. Vorrei un attimo soffermare l'attenzione sulla nostra amica che sta insegnando a ballare salsa a un altro, ma lei stessa non sa ballare salsa. Quindi sta venendo fuori una cosa strana. Ma quell'altro pur di starle dietro, quell'altro pur di starle dietro sta lì. Ecco, dai, salutiamo io un po' le amiche. Io mi tolgo il tacco. Ok, ti abbassi? Mi abbasso. Attenzione, questa ragazza si abbassa, ecco. Io mi abbasso. Tanto cos'è un tacco 20 col tuo? Più o meno sì. Era alto 1,80, adesso non lo trovo più. Dove sei andata? Sono sotto al bancone. Attenzione, qualcuno potrebbe fraintendere, quindi ricordiamo se solo ha tolto le scarpe. Ok, ma dimmi un po', parla un po' delle tue amiche che sono allora, lì fuori. Allora, ho una mia amica che è qua, col capello riccio raccolto. Esatto. Che ha scoperto la Svizzera. Ha scoperto la Svizzera? Non è rimasta neutra la Svizzera questa ragazza? No. Okay. Non è rimasta neutra e secondo me... Meno male. Male che non è rimasta neutra. È single la ragazza? È single da, sì. poco, da poco e quindi è molto buono che abbia scoperto la Svizzera. Ma i ragazzi ne hanno fatto vedere. Viva la Biba! Viva la Biba! Viva la Biba! Ma è vero che e chi la castiga? Attenzione, chi la castiga? Ma è vero che i ragazzi ne hanno fatto vedere la loro stack di cioccolato, allora lei ha perso la testa? No! Ah, ecco, allora mi è giunta un'informazione no, sbagliata. No, la Biba non ha voluto vedere la stecca. Ah, ok, quindi è rimasta neutra in quel caso. È molto rimasta neutra. È molto rimasta neutra. Giulia, noi siamo delle ragazze per bene. No, perfetto, immaginavo. Poi cosa abbiamo oltre la Biba? Poi cosa abbiamo la Bibody di ballerina di salsa, ecco. Barra balli di gruppo, che sta insegnando un po' a ballare. E ora sta guardando noi e sulle mani anche per sulle mani! Bologna, sulle mani, cazzo. Grande Irene. Irene, grandissima. Numero Irene. Uno, Irene da Bologna. Irene, insegnante di ballo a Bologna? Lei no, è insegnante di tanti sport, ma non di ballo. Ah, ok. E quindi è lei che ha insegnato a fare la verticale alla nostra sposa? No, noi la sappiamo già. Io la faccio da quando avevo 4 anni. E non hai mai smesso? No. E facevi già i cicchettini a 4 anni? Con latte? A otto, esatto, perfetto. Poi altre amiche qua in zona che si aggirano fuori dall'acquario? Io ho la mia testimone, oltre mia cugina che è qua al mio fianco in radio. Sì? Che è incinta. Chi? Aspetta un maschietto. La Giulia? No. La Lisa. Ah, la Lisa. La Lisa è la mia testimone e è il terzo figlio. Ah, lei lo sa? Sì. Se la vedi capisci anche tu che lo sa, perché c'ha una panza. Qual è? Vediamo se la vedo. Quella là con la gonna, ma sta andando via. Ah, andando... è quella che pensavo si fosse fregata il cocomero. La paranza, lei, è una danza. La sai tutta? Che si rimane con la latitanza. Con parenza, eleganza e con un lento movimento di panza. Fantastica, ogni tanto voi vi vengono questi jingle in testa e ve li cantate così. Questo è venuto sulla panza della vostra testimone. Dobbiamo trovare il nome, abbiamo fermato 2 o 3 uomini chiedendo che nome dargli. Paranzio? Non viene bene come nome. No, il più bello che abbiamo beccato stasera si chiama Fabio. Fabio, il ragazzo più bello della serata? Tanta roba Fabio. Sì? Ok, tanta roba. Però se la tira troppo. Però Fabio se la tira con la fionda. Fabio, ma cosa ne pensate dei maschi che se la tirano? Malissimo? Meglio uno molto meno figo che però ha qualcosa da dirti. Ecco, e invece è a vostra voce, cioè a vostra... Tipo questo? Questo cos'è? No, questo non c'è niente a dire. È il mimo. È il mimo. Si mette nel locale e fa il mimo. Abbiamo anche il mimo, ecco. Tra l'altro è contento di se stesso. Te tra l'altro, c'è Paolo e Mingo abbiamo. Visto che. Ok, perfetto. Però questi sono apprezzabili. Sono apprezzabili, sono simpatici. Sono simpatici. Vita. Ma voi invece, delle ragazze che se la tirano? Non capiscono un cazzo come gli uomini che se la tirano. Ecco, perché voi siete comunque delle belle ragazze simpatiche, no? Non ve la tirate. Non la siete mai tirata nella vostra vita? È già tanto che non facciamo un rutto. Ma io direi un rutto in diretta ci sta, no? No, a me... Io ho finto. Giulia, ha finto? Ma quello che ingoi l'aria? Esatto, anche io lo so fare. Allora, al 3 ingoiate l'aria e facciamo... Io non sono capace, non sono mai riuscito in tutta la mia vita. Allora, aspetta, però ce lo devi dire tu via. Allora, ce lo devi dire tu via. Io faccio 3, 2, 1, voi nel frattempo... ingerite l'aria e poi dici via e noi andiamo. Va bene? Bene. Ok, siamo pronti. Allora, signore e signori, grandissimo esperimento in diretta mai fatto in tutte le radio del mondo, ma solo a Ristoradio Convento, la nostra web radio, si può fare questo grazie a due splendide, carichissime ragazze di Bologna di nome Sara e Giulia. Pronti? Attenzione, concentratevi. Si parte? 3, 2, 1, via! Fantastico ragazzi, questo è una cosa bellissima. Bologna è questo ragazzi, Bologna venite. Bologna è anche altro. No, sì, esatto, è anche altro, è eleganza, è saper mangiare bene. Esatto. È saper fare i tortellini. Esatto. A 25 anni, saper fare i tortellini, saper fare i tortellini. Io non so fare i tortellini, ma fa niente, però saper bere bene. E anche fare i rutti. No ragazzi, ci sono molte sdore che fanno i tortellini, vanno bene loro. Va bene, va Bologna bene. Regala tutto. Bologna è Bologna. Ok, vi aspettiamo tutti a Bologna, perché se volete nuovamente sentire un rutto in diretta da queste ragazze dovrete andare a Bologna. Comunque ringraziamo la vostra partecipazione, perché è uno di quei momenti che mi rimarranno impressi così per tutta la vita, aver sentito un rutto in diretta da parte di due ragazze finissime, perché gli amici da casa non riescono a vedervi, ma vi faccio descrivere proprio velocemente. Giulia, descriviti velocemente. Fisicamente? Sì. Sono bionda, con gli occhi verdi, sono alta 1,60 m, ho le spalle un po' larghe perché ho fatto ginnastica da tanti anni e sono molto figa. Sì, confermo, va bene, ok. Poi la nostra... E Sara, la sposa? Io sono Sara, sono alta 1,67 m, sono bionda, con gli occhi azzurri. Sì, confermo. Sì, sono alta 1,67. Sì, va bene, la carta d'identità arrotonda sempre in eccesso, va bene. Però se mi tolgo il tacco arrivo quasi al microfono, quasi. Quasi, quale microfono? Vai avanti. Quello della radio. Della radio, esatto. Che è più o meno posizionata al testagnomo. E... sei anche tu molto? Lunare. Che lunare? Lunare. No. Come la cugina sei molto? Gnocca. Gnocca. Esatto, signori e signori, veramente sono due ragazze che sono vestite benissimo, finissime, carinissime. Le classiche ragazze che tu vedi e dici... Però ruttano. Però, esatto, le classiche ragazze che tu vedi e dici io non le andrò mai a conoscere perché sono troppo belle per me, troppo fini. In realtà a Bologna... siamo fini, siamo carine. No, certo, però super alla mano, alla mano. Bologna e alla grande, quindi sulle mani Bologna. Così, ecco, ecco, c'hanno degli scatti. Comunque è così, due ragazze da così non ti aspetteresti mai che ti impiantano un ruttazzo come il vostro. Perfetto, fantastica. Un anni saluto di studio. Un saluto da Giulia, Sara, ciao, ciao, ciao a tutti, buona serata, ciao, amici. Grandissime e carichissime. No, Lonato del Garda. Grandissime e carichissime. Ciao da Giulia e Sara da Bologna. Ciao. Buona serata. Ciao. Andiamo a ballare. Sulle mani. Sulle.